Ecca Gemini in campo, io l'arrechi. Nel campo li dolbio. E gli dirò. E sono qui pro l'angoscia acerbe in perillo divino. E solo aspetto da lui soccorso, aiuto. Dissi vano amore, lascia la rimembranza. Giura l'odio ai latini, esci di pene. Lindo, troppo tenaci, son del cuore le catene. Ma se taci il periglio, vanne, aita di cerco e non consiglio. Sorger prevecco, insolito bisbiglio.